Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, il programma nel corso del quale diamo un'occhiata ai periodici settimanali, mensili, italiani, stranieri, alla ricerca di qualcosa di cui parlare, qualcosa che valga la pena magari leggere, qualche consiglio anche per la lettura. Questa settimana ci siamo accorti di una ricorrenza abbastanza evidente, cioè molti dei periodici, non solo italiani, si sono occupati della coppia in genere, quindi durata dei matrimoni o poca durata dei matrimoni, fidanzamenti, incontri e quant'altro, insomma sfruttando un po' il periodo estivo in cui si presume che le coppie abbiano più tempo per parlarsi, si è scelto di parlare delle coppie. Allora cominciamo, vediamo un po', pescando qua e là tutto questo amore raccontato dai periodici come è stato declinato. Ad esempio sul Nouvel Observateur ci sono 7 consigli per relazioni durature, una sorta di appunto abbecedario per capire come fare a costruirsi un legame che poi possa durare nel tempo. Perché c'è questo interesse? Perché anche in Francia come in Italia il numero delle separazioni è molto alto e quindi molte storie, molti matrimoni finiscono anzitempo, finiscono spesso molto, molto rapidamente e quindi chiaramente non è una cosa augurabile, si cerca anche di capire come scegliere bene il proprio partner. Il matrimonio, spiega l'inchiesta, che è tra l'altro l'inchiesta di copertina del Nouvel Observateur, il matrimonio è comunque la scelta comunque preferita, la vita di coppia è comunque la scelta preferita dai francesi, ci sono 12 milioni di coppie sposate, 3 milioni di unioni cosiddette libere, noi li chiameremo Pax, e dice mantengono comunque la loro attrattiva in qualsiasi tempo, però è sempre più difficile appunto che queste coppie, che queste relazioni durino nel tempo. Saltando le questioni statistiche che comunque non sono molto dissimili dalle nostre, le abbiamo viste anche poche settimane fa con i dati diffusi dall'Istat, vediamo allora questi 7 consigli. Il primo è, dice, non credete nelle favole, non credete alle storie delle favole, cioè abbiate un po' di realismo. Il momento appunto della passione, il momento magnifico degli inizi, in tutti i casi, secondo psicologi e scienziati, non dura più di 3 anni, quindi dopo i 3 anni lo slancio iniziale viene meno e appunto non è il caso di credere alla favola per cui vissero per sempre felici e contenti. L'entusiasmo è destinato a diminuire. Quindi il secondo consiglio, cercate di defondervi l'uno dall'altro, il termine è intraducibile perché già non esiste neanche in francese, però evitare di fondervi l'uno nell'altro e quindi di ricavare ognuno il proprio spazio, significa rispettare il territorio dell'altro, rispettare le amicizie, la vita professionale, le abitudini, e perché se ognuno dei due trova un'esistenza autonoma però restando all'interno della coppia, allora la relazione esiste realmente e riesce a crescere. Quindi si costruisce, ed è il terzo punto, una relazione vera, cioè appunto una relazione che, in cui la coppia si basa soprattutto sulla comunicazione l'uno con l'altro, ma sa anche rispettare l'altro. Quarto consiglio, che ricorda un po' quello che magari è più noto e più da buon senso comune: correte il rischio dell'infedeltà, ovvero si dice certo per sempre, per tutta la vita, ma poi la vita è molto lunga, le cose possono capitare e così avvertono anche naturalmente da Nouvel Observateur. C'è un sondaggio proprio di Nouvel Observateur che dice il 77% dei francesi pensa che la fedeltà condizioni la riuscita di una coppia. però insomma l'11% degli uomini considera che si possa essere infedele di tanto in tanto, solo il 6% delle donne si è spinto a tanto. Naturalmente Valeria Bernardi, che mi assiste questa mattina in regia, a questa percentuale di infedeltà non mi sembra molto d'accordo, ne parleremo magari dopo il programma. Poi il quinto consiglio: riaccendere la fiamma. Naturalmente si tratta di andare a cercare anche delle occasioni fuori dal ménage abituale, un'uscita, una cena, un viaggio, per ritrovare un po' il piacere di stare insieme, anticipare i momenti di crisi e infine in qualche modo impegnarsi per una sorta di obiettivo comune. Che cosa significa questo? Questo è il settimo e ultimo consiglio in questo lavoro di Sylvain Courage, che è stato fatto con Yves Roger. Questo è forse l'obiettivo più difficile da descrivere, dicevo, perché in realtà si riferisce non tanto all'obiettivo di vivere insieme, quanto proprio al condividere un qualche ideale di fondo che poi porti a stare insieme. Al fondo di ciascuna coppia che dura, scrivono infatti gli autrici, c'è la condivisione di una morale, una sorta di visione utopica, di utopia condivisa dai due componenti della coppia, che consente loro di superare le difficoltà, di superare i momenti di crisi, di superare anche i momenti di noia che inevitabilmente e sulla lunga durata si possono presentare. L'argomento è ricorrente perché ad esempio su Donna Moderna si affronta uno dei momenti appunto della crisi della coppia. Perché un matrimonio va in crisi è l'argomento di un articolo firmato da Annalena Benini. Dice: in Italia quasi una coppia su tre si dice addio, quindi restiamo perfettamente nel territorio esplorato da Nouvel Observateur. Il motivo non è solo la fine dell'amore, una serie di ricerche scientifiche rivela che ci sono dei veri e propri fattori di rischio che aumentano la probabilità di fallimento, però se li conosci li eviti. Allora, ci sono dei fattori di rischio che renderebbero appunto, condannerebbero una coppia a non durare, e vengono riferiti in questo articolo. Io vi rimando naturalmente a Donna Moderna per la rassegna completa, vi segnalo qualche passaggio. Allora, la durata di un matrimonio dal punto di vista statistico è quasi stabilita, 14 anni per quelli che si concludono in separazione, 17 se finiscono in un divorzio. Di solito è la moglie a chiedere la separazione. Gli uomini, ironizza l'autrice, sono specializzati nell'evitare di prendere decisioni, ma poi quando tutto è finito e c'è già una nuova vita, ovvero una nuova donna, allora ecco i pavidi insicuri trasformarsi in cuor di leone, bisognosi di chiarezza definitiva. Decisamente non è stata tenera con noi maschi la collega Benini. Comunque, una scrittrice americana che si chiama Annelie Rufus, ed è l'oggetto del suo articolo, ha raccolto i fattori di rischio basati su seri, a volte sorprendenti, studi scientifici e universitari. Tutti gli sbagli in partenza, insomma, che moltiplicano le possibilità di sfasciare un matrimonio. Siete liberi di fargli scongiuri mentre proseguono la lettura. Se vi siete sposati a meno di 18 anni, avete il 48% in più di possibilità di divorziare nel giro di 10 anni. Questo appunto sostiene il Dipartimento della Sanità americano. Se le nozze sono avvenute tra i 19 e i 24 anni, questa percentuale è del 29%. E poi ancora, se avete due figlie femmine, avete più possibilità di divorziare rispetto alle coppie che hanno due figli maschi. Le percentuali dicono il 43% contro il 36,9%. Un'altra ricerca, questa volta australiana, dice che se l'uomo ha elevati livelli di testosterone c'è il 43% di possibilità in più che il matrimonio finisca in un divorzio. Beh, però sapendo che il testosterone è associato di solito a una certa vitalità, questo è meno sorprendente. Poi invece passiamo a questioni un po' più difficili. Non essere d'accordo sui figli da avere o non avere è uno dei motivi che raddoppia le probabilità di un divorzio. Di solito però, il parere dell'avvocatessa Anna Maria Bernardini De Pace, non ci si lascia per le infedeltà, piuttosto per lo sfinimento da infedeltà. Cioè, ci sono donne che combattono tutta la vita contro i tradimenti dei mariti, poi a un certo punto, quando arrivano a essere sostituite da una molto più giovane o decidono che la misura è colma, ecco, finiscono questi matrimoni ventennali. Poi resisterebbero di più le coppie in cui nelle foto gli sposi sono prima delle nozze più sorridenti. Questo significa che sono persone ottimiste e possono sopportare meglio le avversità. E poi l'Università dell'Ohio rivela che aver convissuto con altri o con il futuro sposo raddoppia le probabilità di rapida fine. Questo secondo appunto gli universitari dell'Ohio. Ripeto, tutto questo poi andrebbe analizzato in profondità. Pare che il lavoro ideale per un marito non divorziabile sia il matematico. Le coppie più riuscite comunque sembrano quelle impegnate in un lavoro comune di accoglienza verso gli altri, cioè quelle che si occupano in cui la coppia si occupa di volontariato, oppure sono entrambi ristoratori o albergatori o anche parrucchieri, gestori di palestre, insomma gente che ogni giorno ripercorre gli stessi gesti, però non in funzione di sé ma in funzione degli altri. Quindi questa apertura agli altri funzionerebbe per garantire una maggiore durata della coppia. Non sappiamo se sia così, certo è un argomento di cui magari discutere. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Nella prima parte abbiamo visto come su settimanali italiani, settimanali stranieri, si è parlato anche con lunghi articoli, con lunghe inchieste delle coppie, le crisi delle coppie, perché ci sono crisi nelle coppie, se ci sono addirittura dei fattori che possono favorire l'insorgere di crisi e quindi minare la coppia sulla lunga durata. Su Panorama, non è proprio direttamente collegato, ma sempre di coppie, sempre di innamoramenti parliamo, c'è invece un articolo di Antonio Carnevale che è divertente, intitolato Galeotta fu la pratica e chi la istruì, prende spunto da una direttiva fatta da un'impresa del lusso in Svizzera: si rischia il licenziamento se si ha una love story in azienda. In realtà anche in Italia, riferisce lo stesso Carnevale, gli uffici del personale hanno le proprie regole anti-flirt, non sono regole scritte per ora, questo scrive appunto Panorama. Innanzitutto Carnevale ripercorre appunto la notizia in questo articolo intitolato Galeotta fu la pratica e chi la istruì, riprendendo appunto il verso dantesco. La holding del lusso Richemont, che riunisce marchi come Cartier e Montblanc, ha diramato ai 20.000 dipendenti della sede svizzera un codice di comportamento che vieta gli amori sul luogo di lavoro. Quindi all'impiegato incapace di resistere alla focosa collega non resterebbe che informare tempestivamente, questo è il contenuto della missiva, della love story superiori, nonché l'ufficio del personale, il quale ufficio del personale si riserva poi di prendere provvedimenti che possono andare dal trasferimento fino al licenziamento in tronco di uno o di entrambi gli innamorati. Non si sa molto altro di questo controverso codice, riferisce Carnevale, è stato intercettato e diffuso dai giornalisti della radio svizzera, seguito dal prudente silenzio dei vertici aziendali. Dunque, dice, i casi sono due: o queste sedi sono teatro di veri e propri baccanali, oppure alla base del divieto ci deve essere una motivazione più sottile. Allora, scartata ovviamente l'ipotesi del posto dove più che lavorare ci si dedica al libero amore, probabilmente il problema è che questo divieto non è solo un divieto per evitare le molestie sul luogo di lavoro, ma è proprio un divieto di relazioni anche gradite, anche assolutamente lecite. Specifica infatti Carnevale, il divieto riguarda espressamente i flirt, dove ad esempio le avance sono tutt'altro che sgradite. Un piccolo box a fianco delle prime pagine di questo articolo ricorda che anche negli Stati Uniti ci sono una sorta di contratti dell'amore, cioè cosa si chiede? Si chiede di rivelare la relazione con il collega, con la collega, e c'è anche una minoranza di imprese che ancora considera tabù i rapporti fra capo e subordinati, questo complice anche la rigidità della normativa sul sexual harassment, cioè sulle molestie sessuali. Chiaramente eventuali relazioni possono poi diventare anche un motivo di rivalsa dell'uno nei confronti dell'altro. Però si tratta di eccezioni anche poco pubblicizzate, dopotutto si racconta in ufficio si sono conosciuti anche Barack e Michelle Obama, oppure Bill e Melinda Gates. Quindi più l'azienda è grande, tra l'altro, più frequenti sono i rapporti amorosi, il 6% si riferisce degli impiegati della Southwest Airlines ha poi sposato un collega. Restiamo invece in tema di divieti, divieto di relazioni, mai più baci fra colleghi, come riassume lo stesso panorama. In Italia, come dice Gabriele Fava, un avvocato esperto di diritto del lavoro, un divieto espresso non avrebbe valore, tra l'altro sarebbe incompatibile non solo con lo statuto dei lavoratori, ma anche con i principi costituzionali, con la legge sulla privacy. Però qualcuno ricorda solo che solo 30 anni fa due innamorati che lavoravano nella stessa banca non si sposavano, perché il fatto di sposarsi avrebbe comportato il trasferimento per uno dei due, perché era appunto scoraggiato e, diciamo, alla fine dei conti vietato il avere una relazione stabile con un collega, e così via. Insomma, questo è il contenuto di questo articolo di Antonio Carnevale, in cui si segnala appunto questo divieto che è stato espressamente formulato dagli svizzeri, ma che poi non è così assente nemmeno in altri paesi occidentali. Però a ricordarci che i rapporti tra le persone stanno decisamente cambiando e innovando, si è questo mese Wired. Wired, come sapete, mensile dedicato alla tecnologia, alle tendenze nuove, insomma, si occupa del dating, in particolare con un articolo di Nancy Miller, che è un'autrice tra l'altro di Wired, edizione americana, che ha scritto espressamente per edizione italiana questo articolo. Si occupa appunto di questi siti che mettono in contatto le persone una con l'altra, perché naturalmente non è una grande novità in sé. I siti delle agenzie matrimoniali, per usare un termine più tradizionale, esistono da che esiste la rete. Le agenzie si sono in realtà trasferite, hanno utilizzato la rete per mettere in contatto le persone. Che cosa è cambiato? Che qualcuno ha avuto un'idea di innovare un pochino il meccanismo di contatto tra le persone, e questo qualcuno è OkCupid, OkCupid come Cupido. Si tratta di un sito che fa un particolare sistema di combinazione tra i suoi richiedenti. Spiega l'articolo della Miller partendo da una storia. Erika Baker e Steve Zebrowski, due appunto utenti di OkCupid, non si sarebbero mai incontrati, vivevano uno a New York, l'altro a Baltimora, hanno diversi background, diverse provenienze etniche, religiose, l'una ama il calcio, l'altro il baseball, eccetera, eccetera. In realtà, però, questi due signori avevano in comune un legame fondamentale. Entrambi lavorano nell'information technology, hanno una passione per il sarcasmo e per una serie TV, la serie TV 24. Queste somiglianze sono emerse grazie a un algoritmo, quindi un pezzo di software che ha scandagliato le risposte a una manciata di questionari e di test sulla personalità che i due avevano compilato su questo sito. L'algoritmo ha scoperto che, nonostante le differenze, l'80% delle loro risposte combaciava, e quindi ha messo in contatto questi due signori, che poi si sono appunto incontrati, e la cosa è finita bene. Poi non sappiamo, per rifarci a quello che dicevamo nella prima parte della puntata, se è destinata a durare oppure no, leggeranno magari i consigli del Nouvel Observateur. Ma vediamo invece come funziona questo sito di dating, perché è abbastanza curioso. Il dating online ha un giro d'affari, è un'attività rispettabilissima, un giro d'affari di centinaia di milioni di euro l'anno. In qualche modo, scrive sempre Nancy Miller su Wired, l'esplosione degli incontri via computer sembra un po' l'espressione perfetta della nostra era. Le cifre però oscurano il fatto che molte agenzie matrimoniali online sono rimaste tradizionaliste nelle strutture. Il fine è ovviamente sempre lo stesso, la caccia all'unione perfetta, ma il dating promette soltanto di rendere il procedimento più efficiente grazie a un bacino più ampio di utenti. Invece l'approccio di questo OkCupid è un allontanamento da questo modello. Tutto ruota sempre attorno alla ricerca della propria metà, ma si dà per scontato che il procedimento di trovare una relazione sia governato dai dati. Insomma, si può arrivare a capire dov'è la propria anima gemella, naturalmente bisogna rispondere a un bel po' di domande. Quindi c'è questo algoritmo che combina le risposte degli utenti a domande che vanno dalle cose quotidiane, ti piacciono i gatti, domande di tipo politico, cosa pensi della teoria evoluzionista e di quella creazionista. Molte delle domande, tra l'altro, vengono scritte dagli stessi utenti, e l'algoritmo poi esamina tutte le risposte e mette insieme a coppia i partecipanti basandosi su una percentuale di probabilità che questi due vadano d'accordo, perché poi i fondatori sono andati anche a verificare come sono le foto che vengono messe sul sito, quindi la combinazione si estende anche all'aspetto fisico, ma anche e soprattutto alla scelta della ripresa. Insomma, l'idea di fondo è che poi l'amore è una questione di matematica e numeri che potrebbero mettere ordine nel caos. È interessante vedere come è nato tutto questo, perché nel 2004 uno dei fondatori, allora 27enne, stava bevendo da solo in un bar a New York e attorno a lui c'erano invece persone accoppiate, quindi lui insomma non si stava divertendo un granché, anzi si stava abbastanza annoiando, però l'atmosfera gli fece venire un'idea, quindi chiamò un suo amico e socio d'affari attualmente e gli disse: ma potremmo fare un sito web sullo stile di un bar, cioè con dei filtri per stimolare la conversazione e portare la gente al primo appuntamento, quindi un sito di dating per persone che preferiscono divertirsi e uscire piuttosto che stare collegati a un computer leggendo i profili, cioè dando già una selezione. Ecco, si sono messi a studiare e hanno fatto poi questo sito che ha avuto un grosso successo, secondo quello che appunto riferisce Nancy Miller su Wired di questa settimana, quindi alla base di questo mese, scusate, quindi alla base in realtà delle relazioni durature ci sarebbe solo e soltanto una buona capacità, una ottima capacità di analisi dei dati. Concludiamo così questo lungo viaggio nella coppia che abbiamo fatto questa mattina. Restiamo nel tecnologico, tanto per non allontanarci troppo dall'argomento. Non so se voi mi siete mai chiesti, io personalmente sì, perché i CD durano 74 minuti? Allora, risponde uno dei lettori di Focus. Come sapete, Focus basa una parte del giornale, delle sue pagine, appunto sulle domande e risposte che vengono inviate dagli stessi lettori. 74 minuti hanno un motivo ufficiale e uno un po' meno ufficiale. Quello ufficiale è che con 74 minuti è possibile registrare integralmente la nona sinfonia di Beethoven, che era il brano musicale preferito dall'allora presidente della Sony, Norio Oga, e anche da sua moglie, quindi anche dalla moglie di Aiko Morita, che era un altro dei fondatori dell'azienda. Quindi alla presentazione del CD alla stampa nel 1981, è venuta 1981 a Vienna, fu presentato il primo CD e c'era incisa la versione della nona di Beethoven suonata dalla Filarmonica di Berlino. In realtà c'è una motivazione meno nobile, meno, come dire, alta di questa, una motivazione più pratica, perché nello sviluppo del CD un'azienda concorrente, la Philips, aveva optato per un formato di 11 cm e mezzo che conteneva 60 minuti di musica. Sony ha puntato su un mezzo centimetro in più, 12 cm, che poi sono diventati lo standard vincente. Quindi, per battere la concorrenza della casa olandese, i giapponesi cosa fecero? Aumentarono le dimensioni del disco e la sua capacità, la quantità di musica che si poteva contenere, cercando di mantenere immutato l'obiettivo che era quello di potersi mettere un disco in tasca. Certo, oggi nella fase delle chiavette USB magari questa preoccupazione di dimensioni sembra superata, ma all'epoca, cioè all'inizio degli anni 80, l'idea di avere un disco così piccolo rispetto ai dischi in vinile era effettivamente sorprendente, e così si è arrivati ai famosi 74 minuti. E allora, con questa segnalazione, con questa scoperta che abbiamo tratto da Focus, si conclude la nostra puntata. Io vi do appuntamento a sabato prossimo per Magazine 24. Ringrazio Valeria Bernardi questa mattina con me, grazie anche a Luca Rinaldi e a Margherita Aina che mi hanno aiutato a preparare questo programma. Buona domenica a tutti.